Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena è quella di un personaggio eclettico e decisamente singolare. Torsolo di mela, facciamo amicizia, torsolo di mela, litighiamo. È nato a Bari nel 1977. Performer teatrale, musicista, artista creativo e multidisciplinare, autore molto originale. Dopo aver esordito con Scontrini, racconti in forma di acquisto, scritto a quattro mani insieme con Matteo Bibianchi, e dopo il libro assolutamente sui generis, manuale per diventare Valerio Millefoglie, nel 2012 è arrivata la chiamata dalla casa editrice Einaudi per il suo ultimo lavoro, dal titolo L'attimo in cui siamo felici. Il suo primo disco invece è I miei migliori amici immaginari, uscito sempre nel 2012. Lui è Valerio Millefoglie. Papà, come si diventa superstar? Papà, come si diventa superstar? Papà, come si diventa superstar? Papà, come diventa superstar? Occorre una tazza, occorre del latte. Questo latte va versato finché possibile nella tazza. Zucchero, adesso ci vuole dello zucchero. Adesso metti lo zucchero e gira. È arrivato il momento. Con un gesto deciso del latte infila la mano nei biscotti pan di stelle mulino bianco. Prendine quanti più possibile, quindi lasciale cadere dolcemente nel latte. Continua così fin quando quel che rimane è un cielo di cacao, stelle di glassa. La zuppa è pronta. Mangiane più che puoi, e anche tu sarai una stella. La zuppa è pronta, mangiane più che puoi, e anche tu sarai una stella. Ci sono tanti amici immaginari in questo disco. Dove li hai pescati? L'uomo pan di stelle, il conduttore elettrico della Virginia, eccetera eccetera. Vengono dallo stare in casa. Io vivo da solo, e per cui uno da solo dopo un po' si annoia. Allora, non avendo, cioè, nel senso, ho degli amici fisici, ma non è che tu gli amici puoi averli sempre a casa. Tu a casa devi anche stare un po' da solo, no? Se no non impari a sopravvivere se non stai da solo. E quindi mi sono circondato di amici immaginari. Ho lavorato al disco a casa, no? Alla scrittura delle idee, dei testi. E mi sono accorto solo dopo aver finito tutti i pezzi che erano tutti dedicati a dei personaggi, quindi ho pensato che sono stati degli amici che mi hanno fatto compagnia durante la lavorazione. Sono il lottatore mascherato con gli occhiali, non ho rivali, colpirmi è da sleali, stasera posso farti ciò che voglio. Signore e signori, ecco a voi colui che deve tutta la sua miopia, l'invincibile lottatore mascherato con gli occhiali. L'orfanotrofio comunale di Düsseldorf era stipato in ogni dove, di fronte al televisore giocavano a chi ci vede meno. Il lottatore mascherato con gli occhiali ha appunto gli occhiali ma non ha muscoli, ma il suo sogno era comunque quello di lottare, quindi non si fa un problema di questa sua debolezza, anzi la inforca e sale sul ring e sfida i cattivi del mondo. Il disco è composto da 10 migliori amici immaginari e il lottatore è per me quello più amico, perché è nato anche da un mio sentimento, è nato durante uno spettacolo. Mi hanno regalato una maschera e prima di salire ho messo la maschera, però siccome io appunto ho messo gli occhiali sopra e quindi mi sono immaginato questo lottatore che mette in piazza la sua vergogna, la sua debolezza. La vita di Ali, la vita di Andy, la vita di Johnny Cash, Kaufman, Mohamed. La vita di Ali, la vita di Andy, la vita di Johnny Cash, Kaufman, Mohamed. Appena esce un film sulla vita di qualcuno, io mi precipito come nessuno. Elvis the King ha fatto molti film, ma nessun film su Elvis the King. Elvis the King ha fatto molti film, ma nessun film su Elvis the King. Forse perché quella sera lì, al Madison Square, l'ultima parola fu Elvis. C'è anche Elvis? C'è anche Elvis, e il titolo del pezzo è Elvis Has Left the Building, che è la... La frase che aveva pronunciato il presentatore al Madison Square Garden per cacciar via la gente dopo il concerto, per farla defluire. Quindi l'ha detto: guardate che Elvis ha lasciato l'edificio. Ma questo l'ha detto 30 secondi dopo che Elvis era dietro il palco. Quindi mi immagino che Elvis in questa canzone riesca a vivere una dimensione che va oltre l'edificio, oltre la morte, no? E ha lasciato l'edificio, ma è qua. Il primo fulmine l'ha colpito, gli ha tolto l'unghia dal dito, ma lui ha resistito nel 42. Il secondo fulmine l'ha colpito, gli ha tolto qualcosa dal viso, ma lui ha resistito nel 69. Li vedo puntarmi dall'alto, non posso farci niente. Guardi la foresta, attraente per le saette. Conduttore elettrico della Virginia, non si saliva. Sette fulmini l'hanno colpito, ma è stato l'ottavo. Il terzo fulmine l'ha colpito. Ma la definizione scritta per voce è pianola Bontempi? Sì, sì, perché sono canzoni nate su una pianola giocattolo inizialmente, quindi sono per voce pianola Bontempi. Poi questa pianola l'ho collegata al campionatore, quindi ti dà dei suoni assolutamente non infantili, e quindi è bello, no, suonarla da adulto, perché gli dai un'altra impronta, un altro tocco. Voglio sapere se è vero che tu hai scritto una canzone per Michael Jackson, o più o meno. Che vergogna, sì. Con una tastierina Roland, nel lontanissimo. E... Beh, diciamo che già era ancora vivo Michael, quindi già... Non lo so, sì, forse era un sosia già allora. Però sì, poi sono andato a Roma e ho scritto questa canzone e ho cercato di fargliela arrivare su una cassettina. Era una canzone orribile, aspetta, che faccio in inglese, tra l'altro. Clip Seabrass Grand Run of the Finger Parapara. Cosa tristissima. E quindi però nel mondo, no, io pensavo, ho pensato, nel mondo gli unici ad avere questa canzone siamo io e Michael Jackson, perché poi non so se effettivamente gli sia arrivata, però è arrivata alla reception dell'albergo, hanno detto che gliel'avrebbero consegnata, però a me piace immaginare che poi è andata a finire bene e gli unici nel mondo ad avere questo pezzo. Ormai sono rimasto io, però prima eravamo in due. Uomo striscia pedonale, striscia per le strade, striscia per la vita sul sicuro. L'uomo striscia pedonale, striscia per le strade, striscia per la vita sul sicuro. Mette i piedi giù dal letto sulle strisce pedonali, poi va in bagno lento lento sulle strisce pedonali. Attraversa il corridoio attento che non muoia sulle strisce pedonali. Poi è strada che attraversa, non è nemico il rosso, non è nemico il rosso. Valerio, però tu sei anche scrittore e hai cominciato con un manuale fondamentale. Raccontaci un manuale che penso possa servire più o meno a tutti. Più o meno a tutti, che è il manuale per diventare Valerio Millefoglie. Beh, quindi, insomma, già il titolo ci fa percepire quanto possa essere un manuale che tu hai costruttivo. Scritto... che tu hai scritto con quale spirito? No, l'ho scritto con uno spirito ironico innanzitutto. È un libro di formazione mia, ma non solo, nel senso che l'ho scritto tanto tempo fa quel libro, in un momento in cui devi costruirti l'adulto che sarai, la personalità, quindi prima di provare a essere te stesso ti provi nei panni degli altri. E in realtà si intitola Manuale per diventare Valerio Millefoglie, ma c'è tutto un percorso in cui io mischio la mia biografia a quella di personaggi che mi hanno influenzato, non so, che mi sono piaciuti: Laura Palmer, Frank Sinatra, c'è Bukowski. Quindi è un romanzo di formazione, ma non necessariamente mio. Tu avevi scritto anche Scontrini. Sì, avevo più che scritto ideato con Matteo Bibianchi, che è un libro che si intitola Scontrini, racconti in forma di acquisto, ed erano dei racconti che partivano da acquisti veri, L'idea è cosa c'è dietro quello che ogni giorno compriamo. Se vado al supermercato, la storia di quello che compro è con chi mangerò quella roba, da solo, entro quando la mangerò. E per cui abbiamo chiesto non solo a scrittori, ma anche a gente normalissima di raccontare, di conservare i loro scontrini, di non buttarli e di scriverci una storia. E poi arriviamo all'ultimo, già in ristampa, dicevi? Sì, è andato in ristampa, è L'attimo in cui siamo felici, che è uscito per Einaudi Stile Libero, ed è un... in realtà si parla di felicità nel titolo, però poi la storia parte da un'infelicità, perché racconto un anno di rielaborazione del lutto, perché è venuto a mancare mio padre, e quindi ti viene a mancare qualcuno, ti viene a mancare tutto quanto, la felicità, qualsiasi cosa. Allora nel libro racconto come ho cercato di ricostruirmi la gioia, ma anche proprio la forza di prendere la maniglia e uscire di casa. E quindi ho cercato di ricostruirmi la felicità con quella degli altri. Ho fatto un'inchiesta, mi sono immaginato un questionario, ho iniziato a darlo in giro a sconosciuti. Nell'arco di una settimana dovevano segnarmi i loro attimi di felicità, anche in una settimana che non è felice, in una settimana normalissima. E poi le loro testimonianze nel libro diventano delle cartelle cliniche della felicità che curano il protagonista. Un'invenzione dopo l'altra, ti sei inventato anche un TG. Non so se poi il TG onirico di cui ho letto in rete l'hai poi realizzato. Abbiamo fatto una puntata pilota e una serie di puntatine meno prodotte, però sì, è il telegiornale dei sogni. Abbiamo chiesto, abbiamo detto su internet, mandateci i vostri sogni, non i sogni della vita, proprio quello che sognate di notte. E io ho fatto il presentatore dei sogni, raccontando i sogni, ma come se fossero delle vere notizie. Il libro sta andando bene, il disco anche, e adesso in realtà sto già lavorando a cose nuove, quindi... Sono curiosa, non si può sapere niente. No, perché non lo so nemmeno io. Era Valerio Millefoglie, la prima voce in scena di oggi. Ci ritroviamo tra poco. Voce in scena. La seconda voce in scena di oggi è quella di un cantante e autore che, dopo tanti brani scritti per altri, torna con un proprio album. Chiudo gli occhi e sei un disegno. L'anagrafe si chiama Antonio Calò ed è nato a Brindisi nel 1964. Il suo esordio è legato a due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 1988 con Sarà Forte e nel 1991 con E Noi Qui, assieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella. Nel 1993 vince un disco per l'estate con il brano Ci perdiamo in tanti, mentre nel 94 vince il premio Rino Gaetano come rivelazione dell'anno con l'album Tutto d'un fiato, il quarto della sua carriera. Successivamente vince per due volte il premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo con le canzoni Senza confini, proposta da Eramo e Passavanti nel 98, e Lividi e fiori, interpretata da Patrizia Laquidara nel 2003. Nel 2004 è di nuovo al Festival di Sanremo anche come interprete con Guarda stelle, canzone con cui vince il premio Lunezia. Scrive poi per Grazia Di Michele, Ornella Vanoni, Roberta Bonanno, Valerio Scanu, Marco Mengoni, Emma Marrone. Nel 2011 scrive con Giusy Ferreri il brano Il mare immenso, con cui la cantante partecipa al Festival di Sanremo. Nel 2012 scrive per Cixi l'inedito per X Factor 6 e pubblica il suo album Il valore del momento. Lui è Bungaro. È sempre una, per me ogni volta è sempre entusiasmo, perché quando si parte con un nuovo progetto, quando l'hai faticato con grande amore, sicuramente ha un senso, no? Perché poi bisogna fare i dischi quando si è motivati, quando c'è anche l'urgenza e la voglia di proporre un progetto nuovo. Questo è un progetto che poi diventa anche concerto, ma è una cosa un po' diversa, perché facendo l'autore da molti anni, questa volta ho fatto un gioco che mi divertiva molto, fare incontri incontrare l'autore con il cantautore, no? E ci sono 8 canzoni edite che ho scritto per le più belle voci italiane. Ho avuto il privilegio di scrivere per queste grandi voci come la Vanoni, la Fiorella Mannoia, la Civello, la Ferreri, e sono canzoni che hanno avuto anche un riscontro popolare, e sono tornati a casa con grande rispetto nei confronti di chi li ha cantate, però questa volta le ricanto io con una veste mia, l'ho rivestita del mio presente, del mio essere oggi, con un mio punto di vista, e a fianco ci sono questi 4 inediti. In questi 4 inediti ho voluto delle voci femminili che non avevano mai collaborato con me. È stato molto molto divertente. A volte io vorrei arrivare in Cina ai tuoi segnali per intuire tutti i sensi unici. A volte o quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo a fulmine. Il nostro cuore fuorilegge, spara colpi di dolore. È troppo tempo che non si fa più l'amore. Non scorre il sangue dentro al fiume che ci portava verso il mare. Quel mare immenso. Intanto ti chiedo se è un caso che tutti quei pezzi fossero stati scelti da donne, o se sai toccare delle corde femminili quando scrivi. Ma è una predisposizione da molti anni. Vedo che mi cercano sempre le figure femminili, forse perché è un mondo così complicato ma anche molto affascinante, quello dell'universo femminile. Io cerco di ogni volta di prima di scrivere non pensando a chi dare la canzone, tentare di scrivere una bella canzone, e poi dopo averla scritta mi rendo conto che può essere adatta per Ornella o per Fiorello, per tutte queste splendide voci che ci sono in questo disco. Allora, il disco è Il valore del momento. Intanto ti chiedo il significato di questo titolo. Può sembrare molto impegnativo come titolo, però in realtà valorizzare ogni momento che ci passa davanti, no? E questo spesso ce ne dimentichiamo. In questo caso queste canzoni sono pezzi di vita, no? Ho voluto valorizzare ogni momento vissuto all'interno di queste canzoni, di questi incontri con queste splendide personalità, perché sono anche delle grandi personalità. Lì dentro c'è la nostra storia, c'è un modo di stare, le canzoni sono una scusa per raccontare poi quello che succede fuori. Io mi nutro di vita, e questo mi continua a interessare, continuo così a lavorare artigianalmente, da artigiano. È un mestiere che mi piace farlo così, è per non perdere mai quell'ispirazione che serve assolutamente per creare una canzone, per fare un po' la differenza, ma anche nella scelta di queste 3 donne che ti parlavo prima, che ho voluto, no? Sono gli unici momenti dove c'è una condivisione, chiamiamolo un duetto. Ho voluto Paola Cortellesi in una canzone proprio perché è una donna che, a parte che è estremamente brava, canta benissimo ed è una donna a 360 gradi, cioè sa fare tutto. Donatella Finocchiaro, che è un'artista e un'attrice che io adoro, ho scelto queste persone per il valore che hanno. Lei anche recita e canta in una canzone, fino ad arrivare qui. Devo dire che sono stato anche molto fortunato ad un artista che ho corteggiato per 2 anni, che è una delle più grandi cantanti al mondo di musica brasiliana, che è Nyusha Buarque di Olanda, è sorella di Chico Buarque. Una donna straordinaria, moglie di João Gilberto, ha fatto dischi con Vinicius de Moraes, con Tom Jobim. Non mi sono fatto mancare nulla, e sono persone di valore prima di tutto. Io credo molto nel talento umano, che poi quando c'è quello si possono fare grandi cose. Dammi un bacio che sia per sempre, se piove resterà nel tuo cuore trasparente, vedo l'anima. Cambi tu come fa il tempo, prima avvolge poi non sai il valore del momento, come adesso che vorrei. Quero un beijo che sia per sempre, che possa eternizzare. Come pensi che si sia comportata con te l'industria musicale? Adesso hai fatto la scelta di una produzione indipendente. È stato capito abbastanza, Bungaro? Ma io credo di sì, io sono uno di quelli fortunati in un momento così di crisi, perché faccio i dischi in grande libertà. Tra l'altro questo disco è prodotto da un'etichetta che nasce per la mia musica, che è l'Esordisco, che è distribuita da una multinazionale, dalla Sony Music, però l'idea di scrivere canzoni, di stare con i piedi dentro, no? A questo strano meccanismo della discografia, delle multinazionali, sia italiane che estere, perché lavoro anche molto con l'estero. Quando poi fai un tuo disco, hai la possibilità, il privilegio magari rispetto a tanti altri che hanno la smania, la paura che devono assolutamente vendere entro 3 mesi un disco, è proprio un meccanismo diverso, è consumare frettolosamente la musica. Io per esperienza, questo è il mio terzo disco importante dal 2004, da quando mi ripresentai al grande pubblico con Guardastelle al Festival di Sanremo, a oggi mi sono preso tutti i miei tempi per poter offrire poi al pubblico un disco di dalla prima all'ultima canzone, curato con grande cura nei confronti del pubblico. Credo che oggi, in un momento così difficile, bisogna fare dei dischi. Addirittura ti racconto un aneddoto, anche ho voluto curare il tatto, no? Io mi ricordo, sono stato in multinazionale e dicevo vorrei questo materiale, che è un materiale di cartone, di gomma, no? E fanno, ma questo materiale è costosissimo, cioè non ce lo si può permettere neanche per un big, no? E io ho detto vabbè, qual è, ditemi cosa devo fare per avere questo materiale, per offrirlo al pubblico, e fa le royalty. Io ho detto non è un problema, cioè il concetto qui è di dare qualcosa che ha diventa anche un oggetto prezioso, ed è fondamentale avere. Poi sono anche molto felice perché intorno c'è una squadra, ci si assomiglia, c'è un grande artista come Paolo Soriani che ha curato e sta curando tutta l'immagine, sia dal vivo che in questo packaging, secondo me meraviglioso, perché avevo voglia di azzardare, e questo me l'hanno fatto fare ed è importante. Però sono indiscreta e ti chiedo chi è la bimba che hai in braccio nel booklet. Ebbè, la donna più importante è mia figlia Giulia. Volevo chiudere con lei perché era una foto scattata all'improvviso in studio, mi è piaciuta, ho sentito che c'era un'energia ed era proprio la fonte di ispirazione di tutto quello che poi capita nella mia vita. Tu hai una lunga storia con Sanremo, hai citato Guardastelle, però tu hai una lunga storia anche di brani per altri, anche con Giusy Ferreri, l'ultimo insomma che conosciamo tutti, che sì, ci ricordiamo tutti. Ci torneresti da interprete? Ma sì, ci tornerei. Io Sanremo, diciamo che ho navigato molto su quel palcoscenico, sia dietro le quinte che mettendomi in gioco. È un palcoscenico interessante quando hai da proporre qualcosa. Poi devo dire che ogni volta che ci sono stato fortunato, perché tutte le volte che mi è capitato di salire sia come autore che come cantautore, ho sempre portato a casa un premio a me caro, che è quello della critica. Il premio della critica per me rappresenta incoraggiamento e qualità per andare avanti, perché questo lavoro poi è così strano, e quando invece sei premiato verso quella strada hai voglia di farlo sempre. Citavi Giusy Ferreri, anche in questo disco per esempio ho ripreso Il Mare Immenso, e c'è una versione live in un concerto che ho voluto trattenerla per quanto era giusta in quel momento, sentivo che era il pezzo da mettere nel disco, e anche lì c'è una versione di del Mare Immenso che è completamente diversa, no? Sanremo fa anche questo, cioè ha questo potere di prendere le canzoni e di farle girare, come successe per esempio per Guardastelle, che ha fatto il giro del mondo, l'ha cantata Youssou N'Dour in francese, l'ha fatta Daniela Mercury in Brasile, ti dà questa opportunità se hai veramente qualcosa da dire. Era Bungaro, la seconda voce in scena di oggi, l'appuntamento è per domani alla stessa ora.